Allora, di nuovo in diretta con Tasso e speriamo questa volta di aver superato tutti gli inconvenienti tecnici. Tasso, ci senti adesso? Ci senti sì, bene? Sì, mi sento benissimo. Ecco, anche noi ti sentiamo molto bene. Quindi stavamo dicendo di questo primo sciopero e tu ci raccontavi della giornata di ieri, insomma, abbastanza numerosa o sotto le aspettative anche come partecipazione? No, per i partiti di sinistra e per i sindacati è stato uno sciopero molto importante con tantissima gente e ovviamente se non fai uno sciopero una volta ogni tanto, se la gente non la tieni in movimento, è ovvio che dopo 6 mesi che fai uno sciopero la gente non è facile che sede in piazza, insomma. Però per ieri è stato uno sciopero, come dicevo, di più di 100.000 persone ad Atene, più di 20.000 persone a Patrasso, a Salonico, insomma. Quindi è riuscito. È riuscito e ha mosso un pochettino il governo, cioè abbiamo visto la sinistra del governo che era un pochettino frastornata. In difficoltà. Ecco, ma il nuovo pacchetto, tu dicevi, comprende più o meno le solite misure, cioè vanno a colpire di nuovo la popolazione, ovviamente non i ricchi, diciamo semplicemente. Certo, ma questo governo qua, anche se c'è una componente della sinistra all'interno, le misure che sta prendendo sono 7.500 miliardi sulle pensioni e fanno le trattenute sulle pensioni del 2% su tutte le pensioni dopo sopra le 1.000 euro, il 2%, e poi dopo, non so, 1.400 il 4%, 1.500 il 5%, 2.000 il 10%. E fanno le trattenute sulle spese del governo, cioè praticamente sulla sanità, e fanno sulle scuole, sulle cose insomma che interessano. Ecco, ma sulla sanità per esempio, no? Io ricordo che fino a poco tempo fa c'era in corso, i farmacisti non passavano più le medicine col Servizio Sanitario Nazionale perché non ricevevano soldi. Che altro possono tagliare sulla sanità, insomma? Su questo fronte di farmacisti bisogna dire che le OPI, cioè praticamente l'organizzazione che si è formata dal governo per dare i soldi per la sanità e per le farmacie eccetera eccetera, per i medicinali ai pazienti, non ha la possibilità di pagare, cioè ogni volta che deve dare i soldi ai farmacisti li trattiene per più tempo, non ce l'ha da darli e di conseguenza li ha mandati proprio allo sbaraglio, cioè i farmacisti non possono, ci sono ditte farmaceutiche che non danno i medicinali se non prendono i soldi cash dei farmacisti. I farmacisti li danno ai malati e poi li ricevono dopo 6 mesi, 4 mesi, 6 mesi, 7 mesi, perché il governo non ha i soldi per darglieli. Certo, e senti, ma questo significa che molte medicine vengono pagate direttamente per chi ha i soldi, per chi non ha i soldi? Chi non ha i soldi, effettivamente, ci sono tanti ammalati di cancro che devono prendere anche soldi farmaci molto molto cari. Certo. Che sono costretti a fare la coda agli ospedali per prendere i medicinali dalle farmacie degli ospedali, perché effettivamente non riescono a comprarli. Certo. Senti, tu prima accennavi al fatto che nella manifestazione c'erano presenti anche rappresentanti, insomma, della polizia, poliziotti, insomma, che hanno manifestato. Ecco, questo suona un po' strano, no? Cioè, che ci spieghi un po' com'è questa situazione, insomma, che tipo di rapporto c'è con il resto dei lavoratori in sciopero? Ecco, nelle ultime misure si sono toccate, sembra che stiano toccando anche le buste paga dei poliziotti, delle persone che lavorano nello spegnimento degli incendi, dei pompieri, sì, e di quelli che lavorano protezione civile, nella Guardia della Costiera, sì, che sono, che fanno parte di tutti del pubblico impiego, no? Sì. E questi avevano degli stipendi, diciamo, di 1000 euro, no? Per esempio, dico, avevano uno stipendio di 1000 euro, però come facevano un lavoro pericoloso, avevano anche delle trattenute a parte, che arrivavano a 500 euro, a 600 euro, eccetera, eccetera, perché tante sere dormivano fuori, perché vanno con le barche a guardare la parte costiera della Grecia, eccetera, eccetera, o i poliziotti che devono stare tante ore in piedi, non lo so, alle manifestazioni, non fanno un lavoro di 6 ore o di 7 ore seduti in un ufficio, di conseguenza avevano anche una parte di... Sì, indennità, diciamo, indennità speciali. Indennità. Queste sì. Indennità le hanno tagliate. Ecco. E di conseguenza il loro stipendio è stato dimezzato, capisci? Però mi sembra che hanno picchiato uguale ieri durante la manifestazione, insomma, non ma, è che... Sì, quello è vero, cioè il loro lavoro è quello lì, no? Però, insomma, cioè il loro lavoro è quello lì, cioè, certo che vengono pagati per fare quello, però vengono pagati con stipendi molto bassi e infatti cominciano a scendere in piazza anche loro. E poi ci sono i poliziotti democratici di un ramo, insomma, di gente che è entrata nella polizia dai anni più bassi della popolazione, i quali, insomma, manifestano, i quali dicono che il ruolo della polizia non è quello, eccetera. E si è visto anche quello stamattina, per esempio, ci sono davanti alla sede del PASOK, della Nuova Democrazia, della Vimar, ci sono rappresentanze di poliziotti che fanno una presenza lì, che hanno una presenza lì con i manifesti, eccetera. Invece credo che non hanno toccato né gli stipendi dei militari né hanno ridotto le spese per gli armamenti. No, dicono di no. Dicono di no, quindi quello non, comunque non si tocca, insomma, per il momento. Dicono di no, vediamo un pochettino, anche perché vi ricordo che da quel lato là i politici prendevano dei soldi. Vi ricordate Ciohagiopoulos? Sì, sì, tutte le tangenti. Che è in carcere ancora per i miliardi che ha preso. E questi poi sono miliardi che sono finiti alle società francesi e tedesche che hanno fornito armamenti, insomma, poi il ma queste società francesi e tedesche, come la Siemens, ha dato dei miliardi ai nostri politici per prendere questi lavori. Certo. Ciohagiopoulos in questo momento è in carcere con tanti soldi che ha incassato. Ex ministro della difesa? Certo. Sì. Dunque, quindi la situazione è un po' questa, ma ieri in piazza più o meno che cosa è successo? Si è parlato di numerosi arresti, fermi, eccetera, insomma, han picchiato duro oppure un po' diverso dalle altre volte? No, è stato un po' diverso perché non ci sono stati tanti attacchi alla polizia, cioè era una cosa un pochettino più tranquilla. La popolazione è scesa in piazza, c'era una bellissima giornata, c'erano migliaia di persone, eccetera, eccetera, di conseguenza non erano pochi quelli che si sono scontrati con la polizia, praticamente erano gli scontri li hanno iniziati una sessantina di ragazzi giovani, ma giovani, cioè ragazzini di 16-18 anni, i quali hanno attaccato la polizia, la quale era in presenza massiccia, bisogna dire, davanti al Parlamento e soprattutto davanti agli alberghi. Perché alberghi. Sapete bene che Sidama ha degli alberghi lusso, sì. Da un lato, no? E loro lì era la prima volta che vedevamo polizia in quello in quel modo lì, cioè esposta in questo modo qua. Era proprio davanti agli alberghi, c'erano più o meno 500 poliziotti. E di conseguenza i ragazzini che hanno attaccato da quella parte lì, ma erano ragazzini. La polizia ha cominciato a tirare lacrimogeni, bombe di suono e di luce, eccetera, eccetera. La gente si è messa nelle viucce intorno, però bisogna anche dire che noi che eravamo, per esempio, davanti al Ministero delle Finanze Pubbliche, dell'Economia, perché ci siamo spostati dalla Piazza Sindaco in giù, no? nella parte bassa della piazza, ed eravamo lì davanti al Ministero dell'Economia, che era l'edificio circondato proprio dalla polizia. La polizia non ci ha mica caricato. Ho capito. Però ha tirato tantissimi lacrimogeni per far dare via la gente, perché la gente così tanta, eccetera, eccetera, dà fastidio, no? Infatti, se vedrete le fotografie, sia la TV greca sia la, non fanno mai vedere la piazza gremita di gente, non la fanno vedere, fanno vedere un po' di gente qua, un po' di gente là, perché quando ha caricato la polizia la gente si è dispersa nelle viucce. Ho capito. Senti, ma hanno fatto anche arresti preventivi prima della manifestazione? Certo, certo. Infatti ieri pomeriggio c'è stata una manifestazione davanti alla polizia centrale, perché avevano arrestato della gente che non era in piazza, non è riuscita ad arrivare alla manifestazione. Tutta sta gente si preparava per andare alla manifestazione e hanno arrestato a Zografu, una zona, diciamo, un comune vicinissimo ad Atene, cioè, perché Atene sapete bene che è una città di 5 milioni di abitanti, però insieme a Pireo, insieme a vari comuni che sono, sì. Zografu è una zona dove c'è anche l'università. E lì ieri mattina, mentre la gente si riuniva per sedere giù alla manifestazione, erano state 12 persone, preventivamente. E tanta altra gente a Callisea, nelle strade, che arrivavano alla manifestazione, li prendevano, li portavano alla questura e li hanno tenuti là tutto il giorno. Poi la sera hanno mandato via tanta gente. Anche la polizia è arrivata anche a Exarchia, no? Non credo, insomma. Ah, ieri sì, gli scontri si sono spostati a Exarchia, dopo la manifestazione praticamente, hanno arrestato della gente in piazza Omonia, però c'erano degli scontri praticamente con i giovani, e poi a Exarchia, dove hanno chiuso tutta la piazza di Exarchia, cioè tutta la circondata, zona di Exarchia, insomma, sì. Praticamente, dove c'erano fuochi e così via, giovani armati di bastoni e di caschi, e ci sono stati dei scontri anche là con lacrimogeni, eccetera. Hanno arrestato anche là della gente che hanno portato poi alla questura. In totale quanti ne hanno fermati? Hanno fermato circa, di quelle delle mie informazioni, si parla di 260 persone, delle quali 21 hanno arrestato, e ci sarà il processo domani. Altri sono stati rilasciati, insomma. E tutti gli altri si sono stati rilasciati. Ma questo... E per forza non avevano niente contro di loro. Scusa, se fai degli arresti preventivi, cos'hai contro di lui per poter Ma intanto ti tengono magari un po' di più in galera. Però evidentemente ieri, se mi dici che una parte del corteo, una parte dei manifestanti si è recata sotto la sede della polizia, forse questo ha influito, insomma, sulla decisione di rilasciarne un certo numero. Non te lo so dire, proprio non lo so dire, però effettivamente sono cose che influiscono in qualche modo, perché non vogliono neanche i governanti. Hanno avuto paura dello sciopero di ieri, cioè lo dicevano ieri sera i politici, che hanno avuto paura, proprio c'è stato uno scossone con lo sciopero di ieri. E pensate che ci sono stati... un deputato di Vimara, un sindacalista di Genopdei, cioè dell'Enel greca, sì. I quali hanno detto che non possiamo più sedere in piazza con le mani vuote, cioè se la polizia picchia, ha detto il presidente di Genopdei, cioè del sindacato di Genopdei, non possiamo sedere così, se viene un carro armato contro di me, io prendo un carro armato per sedere in piazza. Questo era il sindacalista degli elettrici, sì, insomma, sì, direi di sì, parole grosse, poi bisogna vedere sempre se alle parole seguono i fatti. Comunque indubbiamente i fatti non seguono, però capisci bene la rabbia che ha gente, che ha dentro tutta sta gente, e come parla apertamente oramai di resurrezione, cioè proprio non ce la fanno più. Ho capito. Detto questo, secondo te, insomma, adesso parlando un po' del quadro politico generale, Qui si voleva capire soprattutto due aspetti, cioè da un lato se ci sarà una ripresa delle lotte come c'è stato alla fine dell'anno scorso, inizio di quest'anno, che sono culminate con quel grossissimo sciopero generale ad Atene a febbraio, dove insomma ci fu veramente l'incendio di Atene in qualche modo, no? Cioè se c'è una ripresa di quel tipo lì, oppure se le lotte si vanno spandendo e consolidando sul territorio in forme anche diverse, di per esempio il movimento non pago, delle autoriduzioni, cose di questo tipo, insomma, ecco, intanto volevamo capire se secondo te ci sarà ancora momenti di scioperi centralizzati, di lotta centralizzata, oppure si va delineando insomma una presenza più forte sul territorio, quindi lotte che sono più legate magari a situazioni locali. Ecco, vorrei dire che c'è stato una repressione totale su tutti i movimenti che lavoravano nelle lotte del quartiere, nei quartieri, eccetera, eccetera. Già nell'estate hanno occupato la Gora di Chipseli, cioè un luogo occupato, cioè un mercato comunale, il quale è stato occupato anni fa, dove facevano lezione migliaia di persone straniere del greco, dove c'era ogni giorno una presenza di libro, un film, una rappresentazione teatrale, eccetera, eccetera. E durante l'agosto, cioè verso la metà d'agosto, è arrivata la polizia, ha sgombrato tutto. E c'è già la polizia lì davanti. Lo stesso è successo ieri sera alle 8 in un cinema occupato, cioè in una piazza di Isografu, come dicevo, dove si sono dove c'era l'assemblea del quartiere, e dove la polizia è intervenuta ieri sera e l'ha occupato. E praticamente c'è una repressione ovunque, sentono che c'è un movimento perché hanno paura dei movimenti. I sindacati, dall'altro canto, hanno paura di organizzare queste grosse manifestazioni perché non le controllano. Non le controllano più, certo. E per forza, la gente è molto incazzata, cioè bisogna dirti delle parole che gridavano ieri ai manifestanti, che ve la fanno pressione, cioè fanno... Per esempio che gridavano, Tasso? E per esempio ieri io ho sentito uno slogan che diceva: non sarà come in Argentina, che scapperete con l'elicottero, noi abbiamo UV. Vi ricordo che nel UV, per esempio, hanno ammazzato i governanti perché hanno, cioè, li hanno messi sul muro. Cioè noi abbiamo, scusa, non ho capito, non succederà come in Argentina perché noi abbiamo un V? UV è una zona di Atene dove hanno messo al muro i governanti. Ah, questo che... nel 40 quando questo? No, nel 21. Ah, nel 21, quindi è un fatto storico, insomma. Certo, cioè la gente pensa a queste cose qua, o parole d'ordine come siamo poveri di armi. Ho capito. Quindi se i giovani arrivano a scrivere sui muri siamo poveri di armi, vuol dire che la cosa si degenera, che non so dove andrà a finire. Davvero. Poi se guardate anche in giro ad Atene, c'è stato avrete sentito dell'aumento del nazifascismo, e vediamo anche come si organizzano i nazifascisti. Ecco, questo è un punto importante, se ce lo spieghi un po'. Sì. Certo. Ci dici qualcosa, insomma, sta crescendo questo consenso al nazifascismo? Sta crescendo in modo spaventoso, soprattutto fra i giovani. Fra i giovani che danno la caccia allo straniero, danno la caccia agli immigrati. All'emigrato che povero disgraziato è venuto in Grecia perché non sa dove sbattere la testa. Basta dirvi che qua ci sono migliaia di afghani e in Afghanistan l'esercito greco ha un contingente. Sì. Chiedono asilo politico, l'asilo politico non lo danno mai a nessuno, quasi, e praticamente questa gente qua viene accoltellata da questi giovinastri e così, accoltellata, nella mia zona sono state accoltellate più di 500 persone. Però... Così, perché hanno un altro colore, perché parlano un'altra lingua, perché sono diversi. Ecco, ma... E sono sti nazifascisti organizzati, i giovani, li ha ripresi anche la TV. Mica li hanno fatto qualcosa, con il coltello in mano che gli davano la carica. Ecco, ma su questo non pensi che ci sia un disegno, diciamo, organizzato in qualche modo tra i poteri dello Stato e questi nazisti, insomma, dico, ma le forze di... Ma questo è sicuro, ecco. Questo è sicuro. Ma questo è cosciente nella sinistra, nella parte, nel movimento? Certo, certo che... Certo, perché abbiamo visto anche l'aiuto della polizia nei loro confronti. Cioè tutte le volte che la gente è scesa in piazza per bastonarli, perché sono 20 ragazzini, no? E quando scende una manifestazione antinazista nel centro di Atene e ci troviamo incontro a queste persone, interviene sempre la polizia, tra noi e loro c'è sempre la polizia per non farli toccare. Certo. Ecco, questo quindi mi sembra una strategia in qualche modo tipica, cioè il potere, lo Stato in questo caso usa anche i fascisti contro i movimenti, perché poi alla fine insomma i movimenti sono dalla parte dei migranti, sono dalla per la solidarietà, insomma, per queste cose. Certo, basta dirvi, due giorni fa, ieri io sono andato alla manifestazione, no, dei sindacati. Ieri sera nella mia zona, cioè a 500 metri da me, c'era un palazzo nell'interno del quale avevano formato la comunità di Tanzania, aveva formato una biblioteca, un posto di incontro, eccetera, eccetera. Sono andati i nazisti a picchiarli. E ovviamente la gente è uscita per strada, eccetera, eccetera. Ieri sera, dalle 8 alle 11, eravamo in questa piazza qua, Piazza Merichi si chiama, è vicino casa mia, e pensate che eravamo, non so, 200 greci e 300... Immigrati, sì, certo. Immigrati, bella. E tutti, ti dico, della comunità di Tanzania... che avevano preso dei bastoni, giovani, giovanissimi ragazzi che volevano difendersi. E beh, giustamente. Capite bene che i fascisti vengono usati per queste cose qua. Ecco, l'importante è che ci sia una reazione da parte della popolazione in genere, ma soprattutto da parte dei movimenti, perché credo che qui ne va anche della sopravvivenza dei singoli compagni, cioè possono venirti a... Ma certo, perché si parte dall'emigrato che è più debole adesso, domani, come nella democrazia di Bismarck, no? Certo. Prima sono partiti dai omosessuali, poi sono partiti dai comunisti, poi sono partiti dagli ebrei, eccetera, eccetera. Zingari, certo. Ha messo piede in Germania. Sì, il copione, se vogliamo chiamarlo così, è noto e non e purtroppo si ripete, noto, sì. Insomma, no, si ripete e col solito con la sinistra istituzionale che non capisce o non vuole capire o non è in grado oppure non vuole, come al solito, insomma, quanto è profonda la crisi e quanto è pericoloso stare lì a guardare, non intervenire, insomma, non avere diciamo programmi di intervento più incisivi. E da questo punto di vista volevo chiederti, insomma, come altro aspetto importante, il ruolo di Syriza e del KKE, insomma, e del QQE, cioè come li vedi tu queste forze di opposizione, insomma, si stanno muovendo bene oppure anche lì ci sono dei problemi, insomma, delle incertezze? Ma guarda, il Partito Comunista Greco è stato un partito storico dove praticamente hanno contribuito tutti, è ingrossato tantissimo negli anni della lotta contro il nazismo, eccetera, eccetera. Basta ricordarti che sia i miei genitori erano membri di questo partito e hanno pagato caro, insomma, questo sostegno e questa questa lotta contro il nazifascismo con carceri e campi di concentramento, ti assicuro che adesso la gente è delusa, proprio delusa. È delusa? Delusa, Giorgio, perché se voi, mi ricordo come radio, siete venuti in Grecia, certo, a sostenere la lotta degli operai della Liburgia, sì, della Caligurgia, eccetera eccetera, una fabbrica metalmeccanica che è stata occupata per più di 9 mesi, con la gente che viveva proprio a stendo, perché con il contributo dell'altra gente, di sostegno praticamente di gente e di organizzazioni di sinistra, e questi qua praticamente non hanno ottenuto niente per gli errori strategici che hanno fatto nel sostegno da parte del Partito Comunista di posizioni, il giornale ieri del Partito Comunista in prima pagina aveva scritto: tutti allo sciopero insieme a noi. Ma com'è possibile, cavolo? Cioè, io da persona di sinistra non riesco a capire come un Partito Comunista che deve lavorare con gli operai ovunque, ma in fabbrica, in comune, in sì, nell'impiego, nel pubblico impiego, eccetera, certo, eccetera, come fai la divisione fra te e gli altri lavoratori? Cioè, come fai voi che i lavoratori vengono con te e gli altri che vanno con gli altri sono nemici? Certo, certo, questo è tipico purtroppo di una concezione del partito, dei partiti comunisti, insomma, che anche qui si ripete, insomma, no? Si ripetono errori. Ma non hanno preso lezione tutti sti anni, scusatemi, ragazzi. No, ma insomma, hanno dimezzato, mi sembra, le ultime elezioni il consenso, evidentemente neanche questo ma gli certo, basta. Ma perché la gente si è incavolata, basta, non ce la fa più a sentire questi discorsi. Ecco, a vedere se sei attivo nella zona, nel quartiere, nelle fabbriche, eccetera, eccetera, potresti avere anche il consenso, puoi convincere la gente, ma se non fai niente in tutta nei quartieri, proprio non fanno niente. Sì, sì, ma loro dicono che sono piccoli borghesi. Io qualche volta ho avuto occasione di parlare con qualcuno di loro e giudicano certi movimenti di quartiere come movimenti piccolo borghesi, che insomma. E vabbè, allora lasciamo i quartieri nei. Sì, no, ma tu sai bene che questa è ideologia pura, insomma, non vuol dire niente, no? Cioè è un modo. Discorso, che... Sì, infatti. Senti, e invece Syriza come la vedi, insomma? E Syriza, guarda, è aumentato tantissimo nelle ultime elezioni, è arrivato al 26% sì, del 100%, ha preso il 26,6%, è un po' frastornato da questa da questa sua successo, non sa che farsene di questo consenso, non sa come. E cerca di fare, ieri c'era la manifestazione sia la segretaria del Partito Comunista Greco, c'era il segretario di Syriza, eccetera eccetera, cercano nei quartieri e in tutti i punti di lotta di essere presenti, però insomma al Parlamento non è che hanno fatto un granché. Ecco, cioè la gente aspettava molto più di loro, cioè anche per esempio ieri, l'altro ieri, adesso c'è una discussione politica a livello giornalistico sul presidente del Parlamento, no? Il presidente del Parlamento è una persona costituzionale, praticamente è la terza persona in ierarchia all'interno delle istituzioni, è stato accusato Pronto? Sì, ti sento bene. Io lo sento, però non. Sì, anche noi ti sentiamo bene. Se puoi parlare anche un pochino più forte, ancora meglio. Sì, questa persona qua è stata accusata 2 giorni fa da un giornale che ha preso dei soldi praticamente. Cioè che ha rubato dei soldi. È un corrotto. È un corrotto. E capite bene che il partito di sinistra di Syriza, che ha una forte presenza, insomma, sì. Certo, poteva, sì, sono usciti fuori i vari esponenti che hanno parlato all'interno del Parlamento, eccetera, eccetera, però qualcosa in più, come chiedere per esempio la dimissione di questa persona, non l'hanno fatto. Capito? Non l'hanno fatto. Eh sì, perché una persona così, indipendentemente se se verrà giudicato colpevole o innocente. O innocente. È certo che però una persona così che viene accusata di una cosa simile, cavolo, deve avere l'accortezza di allontanarsi un pochettino. Su questo insomma potremmo raccontarti, ma forse tanto le notizie le sai, perché insomma conosci la situazione italiana, qui è all'ordine del giorno questo problema, non per sminuire la gravità di quello che succede in Grecia. No, l'ho capito perfettamente, ho visto anche le discussioni lì sulla regione Lazio, sì, appunto, insomma, ecco, questi schifi, queste maglie alate qua, sì. Va bene, ma come fai a non vivere in un paese lì ti mettono le tasse in continuazione, ti chiedono soldi dappertutto, e che non riesci a lavorare, che non riesci a vivere, e poi vedere tutti questi maiali che vivono in questo modo qua? La gente veramente non ce la fa più. Non ce la fa più la gente. Ti arriva ogni giorno di pagare tasse di qua, tasse di là. Adesso aveva messo la Corte Costituzionale, aveva deciso che la tassa sulle case non poteva essere sulla corrente elettrica, no? Certo, sì, me lo ricordo, sì. Sì, adesso quest'anno l'hanno rimessa sulla corrente elettrica. Di nuovo? E diceva che non poteva essere per più di un anno in occasioni molto importanti e così via. Quest'anno l'hanno rimessa di nuovo sulla corrente elettrica. La gente cosa fa? Ci sono migliaia di persone in Grecia che non pagano la luce e non hanno la luce nella loro casa, non so se ve ne rendete conto. Immagino che su questo insomma i movimenti di opposizione cresceranno, anche questo sarà inevitabile. Credo cresceranno, che... però se ti picchiano da tutte le parti, anche te come fai a lavorare? E questo è l'altro aspetto, cioè le lotte vanno sviluppate e vanno difese anche, qui allora entra in gioco appunto la capacità politica di partiti come, dico, Syriza, perché il Partito Comunista evidentemente insomma si è chiuso proprio in una si è ridotto insomma anche nei contatti, come dicevi tu, però qui evidentemente Syriza non riesce non riesce insomma a farsi parte dirigente in qualche modo di queste lotte che avvengono sul territorio, nonostante magari provi a essere presente nelle diverse situazioni, insomma. Certo, perché ti dicono che non abbiamo gente, ti dicono che la gente non segue. E la gente non segue perché non crede più ai partiti di sinistra, quello è il discorso. E quindi qui sarebbe auspicabile che nascessero dei movimenti autonomi, ma insomma il problema evidentemente, a dirlo così, si fa presto, a metterlo in pratica poi è un altro discorso. Certo. È una cosa molto difficile. Bene, Tasso, volevi aggiungere qualcosa? No, la situazione è questa, e guardate che è una situazione tragica. Senti, aspettiamo di vedere che misure hanno preso, perché adesso c'è l'incontro dei tre capi del governo, sì, dei partiti che formano il governo, e fra qualche ora sapremo esattamente le misure che... Quindi che in questa settimana, forse oggi stesso, si saprà che tipo di misure, insomma. Certo. E poi dovranno incontrarsi al solito con la Troica, sottoporli alla Troica per vedere se gli vanno bene. e pensate, l'ultimo che vi vorrei dire, che è la FIZ. Che cos'è la FIZ, Tasso? La FIZ è la casa internazionale insieme alla Moody's. Ah, la FIZ, sì, l'agenzia di rating, scusa, non avevo compreso bene. La quale ha detto che nel 2014 l'AIP della Grecia, cioè il debito del nostro paese, sarà del 180,29%. 180,29% dal 164,9% che è oggi. Cioè prendono tutte queste misure. Sì, non servono a niente, certo. Che non servono a niente, lo sanno anche loro. Servono alle banche al solito, cioè il solito problema, Tasso, è questo. Ma quello è una vergogna, ragazzi, cioè la gente se ne rende conto, vive questa situazione, è frastornata. E vede, queste cose non sa cosa, non sa che pesce pigliare, non sa cosa fare. Bene, penso che dopo queste, che il governo avrà deciso e avrà si sarà pronunciato su queste misure, probabilmente ci saranno sicuramente altre iniziative, insomma, di carattere generale. Io spero, certo, a me. Certamente, e quindi avremo modo senz'altro di risentirci, insomma. Va bene, vi auguro buongiorno. Anche a te, Tasso, mi raccomando, ciao. Riguardati. Facci sempre avere almeno buone notizie sulla tua salute, per il resto no, vabbè, quella c'è, insomma, però insomma, ragazzi, è difficile. Va bene, un abbraccio, Tasso. Ciao, ciao, ciao, tanti ciao. Ciao.